Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si comincia! Quasi tutto pronto per il 23esimo trofeo Berlusconi a San Siro, Milan contro San Lorenzo. Milan che prova così in un anno senza Kobe a tornare a respirare un po' di profumo di palcoscenici internazionali. C'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Prova col sinistro, palla che arriva Pazzini, col destro, è un gol bellissimo, 1-0 Milan, al 30esimo Pazzini ritrova il gol e forse mezzo sorriso su assist perfetto di Saponara. Occhio Bonaventura, prova ad accendersi, palla di là, poi Poli dentro, verso Torres, col sinistro, resta viva il destro di Bonaventura, 2-0 Milan, al minuto 85, raddoppia la squadra di Pippo Inzaghi. C'è sempre stata, è normale che qui si enfatizza sempre tutto, insomma domenica abbiamo fatto una brutta partita ma può capitare, questi ragazzi stanno dando tanto, siamo contenti, stasera abbiamo avuto un bello spirito che ci contraddistingue dall'inizio dell'anno, chi aveva giocato meno ha dato grande dimostrazione di professionalità, è un bel gruppo, se avremo un po' di calma cresceremo piano piano e regaleremo comunque delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Beh, Franco Piantanida, il nostro autore, ci ha scherzato un po' sopra. Franco, oggi titolare. dai gol di Inzaghi in Champions League, la voce di Inzaghi, ma almeno una squadra di ieri sera contro il San Lorenzo, almeno una squadra italiana che ha vinto il mercoledì notte c'è stata davanti a 5.153 paganti. Milan batte San Lorenzo 2-0. Dai gol di Inzaghi in Champions ai cross di Saponara, il Milan non vincerà lo scudetto perché sappiamo che il trofeo Berlusconi porta sfiga, ma alza appunto questa coppa. Ciao Pardo. Il compenso San Lorenzo vincerà il mondiale per club, no, devo dire che mi facevano riflettere le parole di Inzaghi perché sono le parole in realtà di qualsiasi allenatore, no? Se avremo un po' di calma ci toglieremo delle soddisfazioni, quella è la cosa chiaramente più difficile da avere, sì, nel calcio moderno, la calma, la pazienza, saper aspettare, ecco, questo è piuttosto complicato, però sicuramente Inzaghi dal suo punto di vista ha ragione e merita probabilmente anche di avere un minimo di fiducia, nel senso che è appena arrivato, è un uomo di calcio immediatissimo, certo. E io ribadisco, qualcosa di interessante nel suo Milan lo vedo, al netto di tante difficoltà dal punto di vista è chiaro comunque che non è questa la partita di cui parleremo, anche se c'è questa suggestione, mi sembra che i 5.153 di ieri sera per il trofeo Berlusconi siano nella storia recente del Milan l'esatto opposto dei 60.000 di Milan Cavese, o no? Però sì, però ti dico fa un errore di marketing, cioè il posizionamento di Milan San Lorenzo ieri sera in una serata comunque di Champions League, tra l'altro di Champions League in chiaro, quindi di una partita che è stata vista da 6.200.000 persone, approfitto per fare i complimenti al signor Piccinini, anche se poi in realtà non è che per l'Inter c'entri nulla, ma insomma ovviamente a tutto Sport Media, comunque sono gli ascolti straordinari, no? Una partita che vedono tutti, quindi è abbastanza difficile, in più ci sono chiaramente quelli della Pay TV, quindi capisci, fa freddo, è inverno, il Milan in questo momento sicuramente, probabilmente, ecco, se avesse vinto col Palermo avrebbe fatto 10.000. Ma sì, ma non è questo, no, ma non è questo discorso, è questo, è forzato. Cioè, il Milan è stata, sinceramente è stata posizionata male da un punto di vista di calendario, credo che non ci siano dubbi. Questo di sicuro. Questo, cioè, peggio di così non si poteva fare, ma come tutta sbagliata sembra la stagione di entrambe le milanesi. E questo dato forzato, no, che fa scalpore dei 5.000 paganti, che sono una cosa normale in questo momento, è un po' la prosecuzione comunque di San Siro deserta, sia quando gioca il Milan che quando gioca l'Inter. Non c'è fiducia intorno ai milanesi, sono le due grandi malate del calcio italiano, questo lo sappiamo bene. Un'altra malata è quella di cui parleremo tra poco, però, è Pierluigi. La Roma. Ah. Vabbè. No? Sì, beh, insomma, sicuramente non è la Roma di un mese fa. Ieri ha fatto una partita dignitosa, secondo me, una partita, quella sì, più che altre, in qualche modo condizionata dal 7-1 dell'andata, nel senso che Rudy García ha cambiato la squadra, ha cambiato l'atteggiamento, l'ha anche riconosciuto nella conferenza stampa pre-partita, e si è vista una squadra che ha pensato unicamente a non fare un'altra figuraccia, sì, sperando certo. poi ovviamente di fare risultato, e forse anche ragione García nel dire comunque i due gol nascono anche da situazioni un po' sì, ma non c'è stata storia. La Roma però, come dicono quelle parti, non ha strusciato pallone, dai. Ma il dato politico di queste due partite col Bayern, al di là delle sconfitte, al di là del numero di gol fatti e di gol subiti, è che ci si era illusi con le prime due gare di poter competere all'altezza delle grandissime d'Europa, e dopo queste due partite invece emerge una distanza siderale. Sì. La Roma farà bene detto a concentrarsi sul campionato, certo. In generale la mia sensazione è che il calcio italiano, voglio dire, se la Roma prende 9 schiaffi in due partite dal Bayern e comunque la Roma è seconda in classifica, cioè, la Roma è seconda in classifica e la Juventus fa quello che riesce a fare con l'Olympiacos, certo, cioè, questo è evidente. Attenzione Alaba, in mezzo Lewandowski, lo va a cercare all'indietro, Ribéry, non ha sbagliato, grande ripartenza proprio con Alaba, e poi Scarface, Ribéry guarda in vantaggio il Bayern, Lewandowski per Götze, tocco morbido, rete, Götze, gran numero di Lewandowski, un gol firmato dai due ex del Borussia, gol! Getta spazio, sembra chiuso, bella l'idea per Gervinho, dribbling secco, Gervinho, Nainggolan, prova la botta, Neuer, incredibile, una parata incredibile di Neuer. Sicuro che sapevamo che cambiando il modulo gioco, perché era importante sorprendere anche l'avversario e lasciare il possesso palla, perché contro quella squadra non si può avere un possesso più forte di loro, avevo bisogno dei giocatori che sul piano difensivo facevano le cose giuste, le hanno fatte. Sì, il primo tempo contro il Bayern e il primo tempo a Napoli sono stati due, credo, episodi, perché questa squadra per un anno e mezzo ha piovato ben altre prestazioni e si riparte, insomma, questa era una sfida tra virgolette impossibile ancora per noi, e si riparte la domenica, che è forse ancora più importante. Interessava che finisse, sì. Così ti togli dalla scimmia il 7-1 dalle spalle, ti togli la scimmia dalle spalle di dover prendere altri 7 gol contro il Bayern di Monaco, quindi ha tirato un sospiro di sollievo. Ci sarebbe bene l'hashtag di Allegri. Sì, però quello era di sollievo, questo diciamo che sì, è sollievo, ma è un sollievo, diverso, è vero. È un sollievo proprio di aver superato un momento, è come quando tu c'hai un pensiero in testa e ti ritorna per tutto il giorno, finché non risolvi quel problema lì il pensiero ce l'hai. Ecco, adesso il problema è risolto, però adesso la Roma deve fare anche un salto di qualità. E quindi chiaramente abbiamo scherzato, no, con l'apertura su Milan San Lorenzo. 800 24 00 24, il numero verde, questa la sintesi della serata di Champions. Tu dicevi, Pierluigi, la Roma ha salvato la faccia fino a un certo punto, perché in fondo, come dicevo, non ha strusciato pallone, il 2-0 in fondo è un dettaglio. Sì, no, io sono d'accordo col ragionamento di Caressa. Senti, come si sente il telefono? Di la verità. Un po' meglio forse. Ma come un po' meglio forse? Questo è il fisso più antico che c'è, non è neanche sippeteti questo qui. Cioè, dai, sentire questo è veramente. È che non sei più abituato a sentire così bene. Senti, Dolby Surround. Mamma mia, veramente. Sembri qui. E invece sei a Napoli. No, allora, la cosa secondo me è un'altra. La partita di ieri, appunto, è figlia di quella dell'andata. Mai è stata fatta forse una partita così facile, così intellegibile, così semplice da capire, nel senso che García ci ha detto tutto di questa partita. Ci ha detto che voleva lasciare il possesso palla al Bayern, perché la Roma non è in grado di giocarsela da pari, non è in grado di fare quella partita lì col Bayern, l'ha sottolineato De Rossi, e questo è stato proprio semplicemente. Poi nelle pieghe della partita potevano esserci altri episodi, il Bayern poteva segnare prima, poteva segnare dopo, il 2-0 complessivamente è giusto, la Roma ha avuto un'occasione nel finale, Neuer ha fatto una grande parata su Nainggolan, però insomma voglio dire, alla fine questo è. Se la Roma avesse affrontato la partita con lo stesso atteggiamento umile all'andata, probabilmente avrebbe perso 2-0 l'andata e non ci sarebbe stato. Sì, ma sono, infatti sono su due atteggiamenti opposti. Era arrivata con un atteggiamento, con una voglia e un entusiasmo. E anche una presunzione eccessivi. Sì, che poi si è trasformata anche in presunzione, e quando la partita si è messa male dopo 20-25 minuti in un tale livello di depressione che ha portato a qualcosa di simile a Brasile-Germania, tanto per capirci. Sì, sì. Abbiamo scoperto comunque che quel 7-1 ha fatto parecchio male alla Roma, perché il giorno dopo stavamo a dire ma è talmente bizzarra questa sconfitta che magari può non pesare, invece ha fatto parecchio male alla Roma dal punto di vista emotivo. Sarà arrabbiata Giuliana da Roma secondo te? Un pochino. Sì, perché posso dire una cosa. Voi state parlando di questa partita della Roma col Bayern come se fosse una partita qualsiasi, e la Roma non è quella, la seconda in campionato, che perde così col Bayern. Ma voi vi rendete conto? Il Bayern è la squadra più forte in questo momento, ma più forte nel mondo, forse. Ci sta che la Roma, la prima partita in Champions col Bayern, non è stata presuntuosa. Io penso era la gioia di fare il gioco, e non aveva la cattiveria giusta, purtroppo. E adesso hanno un po', diciamo, fatto del bene ieri questa partita nel loro piccolo, ma loro e tutti siamo consapevoli, ma anche noi romanisti, che il Bayern è più forte, ma si sa. E sì, quindi abbiamo perso, ma insomma è una scivolata. E poi non è la Roma di 2 mesi fa. Non c'è Maicon, non c'è Castan, c'è una difesa che manca. Perché insomma non direi male della Roma. La Roma direi che sta giocando la sua parte. Sì, però nemmeno benissimo. Però voglio dire, se sono d'accordissimo sull'attenuante, sull'assenza di Castan che pesa tantissimo, sull'assenza di Maicon che pesa, la differenza contro Siris è enorme. Su Cole che non è esploso, su tutto quello che vuoi, però questo è, e questo siamo chiamati a giudicare, a valutare. Sicuramente in tante squadre italiane, forse tutte, avrebbero perso col Bayern, nel senso che il Bayern in questo momento è la squadra più forte assieme al Real Madrid che c'è in giro per l'Europa e quindi nel mondo. Quindi nessuno sta dicendo che la Roma ha perso 7-1 contro una squadra qualunque. Ha perso 7-1 contro la squadra più forte del mondo, però non è la squadra brillante di un mese fa, si è vista anche a Napoli, quindi deve sbrigarsi. Ha ragione De Rossi quando dice che la partita col Torino, ma secondo te c'è più di fisico o di mentale in questo? No, per me c'è più di fisico tecnico. Sì, cioè 7-1 proprio perché è arrivato col Bayern, posso capire che sia. Che poi è 9-1, leggerlo tu. Leggerlo tutto, sì, intero. Perché il dato è questo, Se l'avessi distribuito in maniera diversa, magari già suonava in maniera un po' differente sto 9-1, però a parte tutto, insomma, io credo che in assoluto la botta ci sarà anche stata. Però poi quando tu vinci contro il Cesena e la Juve in quel momento perde a Genova contro il Genoa e vai alla pari, torni alla pari, e poi a Napoli devi fare, cioè secondo me la botta psicologica è superata. Poi certamente giocare in casa del Napoli non è facile per nessuno, perché è una squadra che ha delle prestazioni, ha dei picchi positivi enormi, poi non ha magari continuità, ma ha dei picchi positivi enormi, quindi può battere chiunque. Però insomma io credo che la botta psicologica sia stata assorbita sul gol di Antonini alla fine. Sì, la Roma era tornata a pari meglio con la Juve. Sì, poi a Napoli ha giocato una partita sconcertante. Sì, adesso vediamo. Sono d'accordo con De Rossi, il campionato, lo dico dall'inizio, è l'obiettivo più realistico, no? Ma certo, ma infatti è lì che quante volte abbiamo detto, Pier, che in fondo per quanto riguarda la Champions la pressione è sulle spalle della Juventus, perché ieri usavo questa immagine: in fondo a questo girone per la Juventus c'è un cartello che ho scritto fallimento nel caso in cui non passasse. Per la Roma questo fallimento non esiste, tra l'altro è un girone molto difficile. Quest'anno deve essere una gita deve essere, bella, sì, deve essere nella quale bisognava cercare di evitare figuracce come quella con il 7-1, ma è comunque un'esperienza, serve ad accumulare punti, ranking, a farsi una reputazione internazionale. Tra l'altro non abbiamo detto per niente che alla luce del risultato di ieri la Roma è ancora ampiamente padrona del suo destino, ma sicuro. Se dovesse vincere a Mosca col City che non batte il Bayern, potrebbe paradossalmente qualificarsi con 90 minuti. Poi stiamo facendo un mazzo così alla Roma, ma del City cosa dobbiamo dire? Cioè, non so se è maledizione o Champions, però il City è veramente sconcertante. E non so se si può parlare di maledizione di europea per il City, però è ora anche di finirla con le suggestioni. Secondo me loro sono veramente improponibili. Allora, così lo facciamo alla Roma, l'abbiamo fatta alla Juve, alle italiane in Europa, perché vorremmo sempre vederle avanti, vederle protagoniste, perché insomma è triste rassegnarsi a questa idea che siamo veramente così poveri. Quindi... Però è realistico. Davide D'Alessandria, prima della borsa. Sì, grazie della convocazione, buona giornata a tutti. Tifoso della Roma, è anche orgoglioso, perché se mi permettete, io mi ricordo qualche anno fa quando abbiamo giocato con il Bayern Monaco, era un Bayern Monaco diverso, però era sempre un grande Bayern Monaco con Ranieri in panchina, e noi siamo andati a Monaco, ci siamo difesi tutta la partita e ne abbiamo prese due. Poi all'andata, poi al ritorno abbiamo vinto 3-2, ma loro mi sembra che erano già qualificati ed è stata un'altra cosa. La Juventus due anni fa con Conte è andata lì e hanno giocato con 11 giocatori dietro la linea della metà campo e hanno perso 2-0 e 2-0 hanno perso lì. Allora, io da italiano e da romanista sono contento, anche se ce le hanno fatte 7, che almeno con orgoglio ce la siamo giocata, nel senso che non ci siamo chiusi in difesa, abbiamo giocato, abbiamo perso, amen, che sarà mai, è una partita di calcio, però almeno ce la siamo giocata. E allora, poi tra l'altro questo è un ragionamento secondo me molto interessante, nel senso che io fra l'altro quel Bayern Roma di Ranieri me lo ricordo benissimo, la Roma si presentò con un 4-4-2 praticamente senza esterni, mi pare che giocavano Brighi e Perrotta, se non sbaglio, esterni di centrocampo, due adattati in quel ruolo. Sicuramente la Roma contro il Bayern, ma l'ha detto lo stesso Guardiola all'andata, ha avuto un incidente, Guardiola ha usato queste parole, cioè si è creata una situazione che poi chiaramente fa sì che i tifosi avversari ti possano prendere in giro per tutta la vita, ed è il loro lavoro ed è giusto e fa parte della bellezza dello sfottò. Però sicuramente quella partita lì la Roma era arrivata con un atteggiamento positivo, con la speranza di potersela giocare, e se l'è giocata con leggerezza, troppa leggerezza, diremmo, con senno di poi, ma sono d'accordo, cioè, secondo me c'è un elemento vero nel parere di questo ascoltatore. Adesso però comincia una cosa interessante, cioè adesso la Roma deve fare il salto di qualità in campionato, se lo fa bene, e se non lo fa, questa stagione non sarà stata l'altra. Certo, cioè, certamente. Non la giudicheremo, la stagione della Roma non la giudicheremo dalla 7 col Bayern. Non la giudicheremo dal 9-1 con il Bayern, non la giudicheremo nemmeno dalla Champions League, la giudicheremo da quello che succede il sabato e la domenica in campionato. Fratelli e sorelle, buongiorno. La Chiesa oggi si trova alle prese dei grandi problemi, le comunioni per i divorziati, no, peggio, molto peggio, la mansarda di Tarcisio Bertone, no, peggio, molto peggio, sì, e il San Lorenzo ha perso il trofeo Berlusconi, non ci resta che piangere. Hai detto a Francesco, ma quando smetti di giocare? No, ha detto che non smetta di giocare, se ancora c'è la voglia è ancora il mestiere più bello del mondo, essere giocatore calciatore. E mi sembra di che lui ancora ce l'ha. Sto parlando di te, Francesco. È qui, è proprio qui, Francesco Totti. Sto parlando bene di te. E niente, no, mi fa piacere averlo, perché credo che quando abbiamo giocato insieme non l'avevo visto più. E mi ha fatto piacere, non l'ho potuto vedere a Roma, adesso mi ha fatto piacere vederlo. Il discorso qualificazione per il Bayern è concluso, la Roma secondo te insomma ce la può fare per arrivare agli ottavi? Dipende di loro, più importante è il calcio quando dipende di te, questo è lo più importante. Noi ci proveremo, veramente andremo a Manchester e a qua riceveremo il CSKA per vincere, senza dubbio, ma dipende di loro, questo è lo più importante. Quindi non ce l'hanno la scusa di che noi abbiamo fatto forse il nostro compito, ma dipende da loro, un grande in bocca al lupo, veramente. Non era facile quando abbiamo... Nengoliano andava come terzino sinistro, e Florenzi a destra, facevano linea di 6. Il primo tempo abbiamo stato lenti, credo loro hanno fatto molto bene, noi non abbiamo stato così bene. Nel secondo tempo abbiamo attaccato più lo spazio meglio. Era normale, aspettavo un po' così, dopo un 7-1 normale che se volevano proteggere un po'. E se noi facciamo un po' la transizione un po' più veloce che non l'abbiamo fatto il primo tempo, abbiamo avuto dei problemi, ma va bene così. Un Guardiola molto ecumenico, Pierluigi. Sempre, quasi, come sempre, ma devo dire che molto anche Guardiola in qualche modo conferma. Carezza per tutti. Conferma la diagnosi. Si è aggiunta la compagnia il professor Andrea Schianchi, che ha fatto sulla Gazzetta l'analisi tecnica di questo Roma, di questo Bayern Roma, sottolineando quello, la partitona che ha fatto Alaba. Ciao Andrea. Ciao a tutti e grazie per il professore. Senti, ma lo chiedo anche a te: la Roma ha salvato la faccia? Oppure fino a un certo punto, nonostante Garcia dica cancellato il 7-1, perché in fondo il 2-0 è solo un dettaglio in una partita che il Bayern non ha mai, insomma, ha controllato in qualunque modo e maniera? Ma io credo che le partite del passato non si cancellano mai, cioè non si cancella il 7-1 della Roma all'Olimpico, non si cancella la sconfitta che aveva subito a Old Trafford anni fa, non si cancella andando a un'altra squadra lo 0-3-3-3 del Liverpool sul Milan nel 2005. Le partite non si cancellano mai, secondo me dalle partite qualche cosa bisogna imparare. Forse Garcia ha imparato che in questo momento, a livello di tecnica individuale, di possesso palla quindi e di gioco del calcio vero e proprio, la Roma non è a livello del Bayern di Monaco, come probabilmente non è a livello di altre squadre continentali, e allora ha giocato in un modo prudente, chiamiamolo italiano, chiamiamolo, ha cercato di limitare i danni, insomma. Il vecchio Nereo Rocco, di cui ho scritto una storia la settimana scorsa, diceva, quando gli dicevano vinca il migliore, diceva speremo de no. A proposito, insomma, cioè, di questo, il Bayern è più forte, non certo, no, questo è indubbio, però volevo chiedere anche una cosa a Pardo, ma secondo te questo turnover che ha fatto Rudy, vabbè, chiaro, abbiamo detto Roma concentrata sul campionato eccetera eccetera, sa anche un po' di alibi, cioè nel senso che uso il turnover in modo che insomma. Beh, no, perché un po' il turnover è in caso, anzi, se avesse perso male anche ieri sera gli avrebbero rimpacciato il turnover. È successa una cosa in qualche modo simile a Brendan Rodgers del Liverpool, che ha lasciato in panchina Gerrard, Balotelli, Sterling, esatto. Mezza squadra dopo il 3-0 dell'andata, no? E lì c'è stata la netta sensazione che stesse facendo essenzialmente turnover in vista di Liverpool-Chelsea che arriva in campionato, e poi però alla fine quella squadra lì, per il tipo di partita che doveva giocare, se l'è cavata meglio. Paradossalmente con Real Madrid se l'è cavata meglio, perché è una squadra più umile, più gregaria, più proletaria, che ha fatto meglio la fase difensiva e che ha consentito di tornare a casa con un 1-0. E secondo me siamo in una situazione abbastanza simile, nel senso che comunque sì, l'idea del 4-4-1-1 della Roma di ieri, guarda, il modulo, guarda, io direi che siamo quasi al turnover, siamo quasi a una nuova frontiera del turnover estremo, cioè queste partite qui con le più forti le giochi con le seconde linee. Mourinho ha detto una cosa molto interessante che vi faccio sentire e poi la commentiamo. If Liverpool decide to rest players when they play against the European champion, it's a question for Liverpool manager. If one day I go to a game and I don't feel I can win, maybe I don't go. La partita con il Liverpool è già cominciata per Mourinho, poi il turnover quando gli conviene lo fa anche lui, però avete sentito cosa ha detto: se scendo in campo sapendo già che non posso vincere, meglio quasi non andare. Andrea Schianchi. Ma insomma, se non va prende 0-3, quindi sì. Ma no, cioè adesso vabbè, è chiaro che Mourinho cerca di accendere un pochino il fuoco sotto la legna, perché c'è questa sfida contro il Liverpool, si lamenta del fatto che il Liverpool ha fatto turnover, ha fatto riposare dei giocatori eccetera. Io non sono chiaramente d'accordo sul turnover esasperato, ma non credo neanche che Garcia abbia fatto turnover per in previsione della partita con il Torino di domenica, credo semplicemente che abbia cercato di limitare i danni come si faceva una volta in Italia. Allora io l'ho scritto oggi, noi dobbiamo renderci conto che in questo momento non voglio dire che l'Italia è all'anno zero, perché l'abbiamo sentito troppe volte, ma siamo nettamente inferiori, non a livello tattico, e io mi arrabbio ogni volta che ascolto tecnici parlare di tattica, di diagonale, siamo inferiori a livello tecnico, cioè i giocatori delle migliori squadre europee stoppano il pallone in 0,3 secondi, noi, un nostro giocatore, stoppa il pallone in 0,7 secondi, questo significa che è più bravo quello che non gioca in Italia. In più ci aggiungiamo che noi andiamo più piano perché abbiamo, non so per quale motivo, ma evidentemente un deficit atletico, chiamiamolo così, perché mi sembra abbastanza evidente, e a tutto questo sommiamo l'esasperato tatticismo del nostro campionato, che secondo me queste due aspetti sono strettamente connessi. Dicevi, Pierluigi? Gli arbitri fischiano troppo in Italia. Fischiano troppo. Anche, sono assolutamente d'accordo, perché ad esempio mi viene in mente Atkinson in Juventus Olympiacos ha fischiato pochissimo e la partita scorreva tantissimo, quindi noi scontiamo dei deficit tecnici, dei deficit atletici, dei deficit, chiamiamoli così, di tradizione, perché l'esasperato tatticismo alla fine è figlio della nostra tradizione, e quindi abbiamo dei problemi. È chiaro che quando avevamo dei grandissimi vantaggi economici e quindi le stelle, allora riuscivamo a fare bene. Adesso purtroppo c'è la crisi economica, ci sono dei problemi, le stelle non ce le possiamo permettere, è ovvio che andiamo incontro a dei guai. E io sinceramente ho preferito il Garcia di ieri rispetto al Garcia del 7-1, perché quando è finita 7-1 ho detto vabbè, adesso passatemi il termine, ma questo non è molto normale, a schierare tre punte più una mezza punta come Pjanic contro il Bayern di Monaco, no, perché è chiaro che questa, ne prendi 7. Questo era stato un grave peccato di presunzione. Quindi la lettura, Pierluigi, è questa, è molto semplice. Prima avevamo le superstar, adesso non le abbiamo più. Con la speranza che rispetto, per esempio, a un anno fa o due anni fa, ci sia, e forse siamo sulla strada giusta, ci sia almeno una consapevolezza di dove siamo. Ecco. Sì. Io questa la. Perché però per vedi quello che sta succedendo in Europa League, no? L'Europa League invece è una competizione giocabile. Bravo. L'Europa League la stiamo cominciando a giocare. Bravo. La Roma deve pensare a queste due partite con CSKA e Manchester City e cercare di portare a casa in un modo o nell'altro la qualificazione. Poi andrà negli ottavi, magari beccherà degli altri schiaffi, perché è chiaro che se ti capita, tra l'altro la Roma da questo punto di vista potrebbe essere fortunata, perché il Bayern almeno è sicuro di non prendere. Ti può capitare, certo, il Real o il Barcellona, però magari riesci anche a trovare una soluzione. Poi il Barcellona non è detto neanche che arrivi primo. Sì. Quindi bisogna, secondo me, siamo mediani in questo momento. Siamo mediani, non siamo dei fenomeni, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e lottare su ogni pallone per recuperare posizioni. Premesso che le posizioni poi le recuperi soltanto, e qui chiamiamo Berinazzo, se dal punto di vista dei fatturati riesce a fare delle cose clamorose. Certo, questo è chiaro. Questo sì, è chiaro. Però, scusate se vi interrompo, io ho fatto tutto giusto quello che ha detto Pierluigi, però io ieri ho scritto questa analisi su Alaba. Ora, Alaba non è Nilton Santos, non è neanche Cabrini, e non è neanche Facchetti, e non è neanche Paolo Maldini. Però il Bayern di Monaco, e questo ragazzo ha 22 anni, tra l'altro purtroppo si è anche infortunato. E sto ragazzo però che è arrivato, l'hanno cresciuto pian piano nel vivaio, questo sa fare il terzino destro, il terzino sinistro, il centrale di difesa, il centrale di centrocampo, addirittura il regista, ieri ha fatto la mezzala sinistra. Ora prendetemi un giocatore italiano dal vivaio, visto che noi ci riempiamo la bocca con il devono giocare i giovani, prendetemi uno che sia in grado di fare questo. Io un nome di uno bravo lo do, ed è Romagnoli della Sampdoria, che qui è della Roma in realtà, però la Roma l'ha mandata alla Sampdoria per farlo crescere. Sì. E nella Roma gioca Ian Gambiva o Manolas, perché sì. Romagnoli non poteva giocare? Non lo so, bisogna chiederlo a loro. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ciao Andrea Schianchi. Se vinca o se perda, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni della Libertadores, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni della Libertadores. Davide Cosenza, buongiorno. Salve, ho chiamato per chiedere un parere a proposito del Bayern Monaco, visto gli ultimi anni. Volevo chiedere se attualmente, visto il gioco espresso in questi, appunto in questi ultimi anni, non possa essere considerata la squadra più forte anche di tutti i tempi, considerando anche un parallelo col Barcellona, con col Milan di Sarri. Ma io, perché... ai paralleli epocali, ai confronti di questo tipo non sono favorevole. La squadra più forte di tutti i tempi non lo so, la squadra più forte del mondo in questo momento sì. Cosa dici, Pier? Ma c'è anche Real, che l'anno scorso ha ridicolizzato il Bayern in semifinale. No, non lo so, per me in questo momento quello che abbiamo visto finora è che Bayern e Real sono avanti a tutte, e sicuramente il Bayern è una squadra che negli ultimi anni, e il calcio tedesco negli ultimi anni, ha dominato sia a livello di club che a livello di nazionale. Paragoni sono difficili, secondo me l'unico paragone che si può fare è quando ci sono delle squadre che rappresentano un ciclo, cioè l'Ajax agli anni 70, il Milan di Sacchi e poi di Capello, il Barcellona di Guardiola, ecco, queste sono squadre perché riescono a dominare per un certo numero di anni, e forse anche perché hanno, dal punto di vista della storia del calcio, della storia tattica del calcio, una capacità di cambiare, di cambiamento, sono innovatrici, visionari, e questo secondo me è il tratto che poi rende certo la squadra. Quelle che riescono comunque a produrre un ciclo, riescono a produrre un ciclo a prescindere da... insomma, il calcio tedesco sta dominando. Ma volevo dire una cosa su quello che diceva Schiacchi alla fine, anche sugli allenatori. Che noi giustamente, è vero, ci facciamo i complimenti, il calcio italiano, Coverciano, abbiamo una squadra di allenatori, un livello tattico di preparazione molto elevata, ma se noi guardiamo, non sono soltanto i calciatori quelli che facciamo fatica a prendere, perché se noi guardiamo il nostro campionato, nel nostro campionato ci sono praticamente solo tre allenatori che hanno vinto cose importanti: Benitez, Allegri e Garcia. Poi c'è la Coppa Italia vinta da Mazzarri, Inzaghi è un esordiente, Pioli è un buonissimo allenatore ma ovviamente non ha ancora vinto nulla, Montella ha fatto cose importanti e non ha vinto nulla, quindi sì. Anche da questo punto di vista i nostri, cioè i migliori al mondo, mi dispiace dirlo, ma non sono qui, o comunque ce ne sono pochi rispetto a quelli che ci sono, sì, da altre parti. Noi comunque... Guardiola o Ancelotti, che ieri ha dichiarato che sta benissimo a Madrid, oggi non ce li possiamo permettere, cioè questa è la verità. Questa è un'altra questione economica, ovviamente. Vale questo discorso come per gli allenatori, come vale per i giocatori. È molto semplice, chiamare Beninazzo e capire come facciamo a farci dei soldi. Cioè, è questa cosa che fanno, a parte le battute, a moltiplicare i fatturati, a combattere la contraffazione delle magliette, a fare gli stadi di proprietà, a fare il merchandising, a migliorare ulteriormente anche se i diritti televisivi sono l'unica cosa che mi pare che continui a crescere. Intanto sulla questione Roma-Bayern al Colosseo non se ne parla neanche. No, non se ne parla neanche, ha detto Franceschini, però. Ha detto Franceschini. Va bene, ok. Era una bella idea arrivare lì, dai. Era una bella idea arrivare lì, magari la fanno al Circo Massimo, o magari la fanno a porte chiuse, la fanno davanti a 1000 persone. Io dico questo sui monumenti in assoluto che devono essere fruiti, poi è chiaro che non tutto deve diventare commercio, però l'esempio dell'Arena di Verona dimostra che insomma ci sono dei luoghi che possono... Ma sai, ma quando non c'è il grano ci vuole anche un po' di fantasia, e tutto sommato alla fine Pallotta ne ha avuta, servirebbe anche un po' di fantasia se non è possibile farci spiegare da Berinazzo come produrre quattrini. Francesco Foggia, e poi salutiamo Pierluigi. Sì, pronto? Dica. Grazie per la convocazione, trasmissione stupenda. Ascolti, volevo soltanto dire, volevo solo dire che non sono d'accordo. 2-0, o 7-0, o 5-0, 1-0 sempre mazzate, insomma. E un tifoso vuol vedere la sua squadra vincere. Uno va in campo per vincere, non per prenderne di meno. Ho capito, ma è quello che stiamo dicendo, che il confronto in questo momento... Così. No, ma tutti la pensano così, e Francesco. Dico che, siccome sono demaniano, io mi devo divertire. E se devo perdere, perdo, però non, beh, non, insomma, può, non può una squadra ma, andare no, in ma allora, allora stiamo, stiamo dicendo due cose diverse. Voglio, l'importante è vincere, però sono zemaniano e quindi se perdo 8-7 mi diverto ugualmente, quindi non, mi sembrano due cose diverse. Pierluigi, come vedi il Napoli stasera, che vedrai e commenterai? Lo vedo bene, anche se c'è tanto turnover, e spero che non sia troppo turnover, perché stasera il Napoli deve assolutamente deve vincere questa partita, perché il suo girone si è fatto improvvisamente complicato dopo la sconfitta di Berna, con tre squadre in lotta per due posti. Torno sull'ascoltatore di Foggia in 12 secondi dicendo che è vero che l'1-0 è come l'8-1, ma c'è prima di tutto una componente psicologico-mediatica, e poi c'è il fatto che ieri non è che Garcia è sceso in campo con quella squadra perché voleva perdere 2-0, è sceso in campo con quella squadra nella speranza di poter, attraverso gli episodi, attraverso delle situazioni, riuscire a portare a casa il risultato. Cioè non è che è sceso in campo per perdere, è sceso in campo per cercare di fare qualcosa, e ha pensato che, vista la distanza tecnica che esiste fra le due squadre, l'unica possibilità per provare a neutralizzare il Bayern fosse questa. Sì. È sceso in campo per perdere 2-0. È come tutte le squadre che hanno cominciato a giocare contro il Barcellona, quelle che hanno avuto più successo, ad esempio il Chelsea, che sperò la finale di Roma nel 2009, fece un catenaccio all'andata a Barcellona mostruoso. Ma sì, ma basta ricordare l'Inter di Mourinho che vinse praticamente la Champions League giocando quel tipo di partita contro il Barcellona, partita che tutti gli interisti ricordano ancora con le lacrime agli occhi. Ciao Pier, grazie, sentiamo domani. Ciao. Quote e pronostici. C'è l'Europa League in campo questa sera con quattro italiane che cercano il pass per la fase finale. Si comincia alle 19 con la sfida in Finlandia per il Toro di Ventura che gioca contro l'Helsinki. Vediamo dunque le quote SNAI per queste partite. L'1, la vittoria dell'Helsinki, è quotata 6,25, l'X è a 3,60, il 2 invece, con il successo dei Granata che sono favoriti, è quotato 1,60. Impegno serio per l'Inter di Mazzarri, che deve provare a ritrovarsi in Francia in casa del Saint-Étienne. L'1, il successo dei francesi, è a 2,30, l'X è a 3,20, il 2, con la vittoria dell'Inter, è quotato 3,15. Fiorentina invece in campo alle 20,45 al Franchi contro il PAOK capolista in Grecia. L'1, la vittoria dei Viola, è a 1,65, l'X è a 3,65, il 2 è quotato 5,50. Per il Napoli invece il San Paolo sfida contro lo Young Boys, che all'andata fece molto male agli uomini di Benitez. L'1 è quotato 1,40, l'X è a 4,75, il 2 è quotato 7,50. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci a domani. Emergenza più di prima, ma questo non ci deve creare pensieri diversi da non quelli che quando entriamo in campo chi attiene la maglia dell'Inter deve fare una grande gara. Questo lo devono sapere tutti i componenti della rosa e anche i ragazzi della primavera che verranno e fanno parte di questo gruppo da un po' di tempo. Quello che dobbiamo migliorare noi è la gestione della partita, la gestione anche della tensione, la gestione di tutto che gira intorno al calcio, tutto che gira intorno al Napoli, tutto che gira in una partita dove tutti aspettano dall'inizio che deve fare un gol e deve vincere. Ma tu puoi vincere nel minuto 70, 75, 80, sempre che tu stai controllando la partita. All'inizio di questa avventura molti mi chiedevano: ma farete come gli altri che la snobbano? Ho risposto che era impensabile che una squadra come la nostra, che mancava da 20 anni sul palcoscenico europeo, potesse snobbare. Cerchiamo, naturalmente, con le difficoltà dell'alternanza, ogni 3 giorni giochiamo, quindi è chiaro che qualche difficoltà la incontriamo, però c'è voglia di finché sia possibile, finché ne saremo capaci, di essere protagonisti in questa competizione. Sappiamo le difficoltà che finora abbiamo trovato in campionato, e questo vuol dire che non basta il 100%, quindi è ora di lasciare lo smoking a casa e di cominciare a pedalare. Però dubito che lo smoking se lo siano comprati da solo, tantomeno glielo ho regalato io, mi piacerebbe sapere da dove è venuto fuori. E questi degli Smoking erano Pizzarro e Montella, naturalmente. Ho catturato al volo la zanzara Giuseppe Cruciani. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Abbiamo catturato anche Antonio Di Gennaro al telefono. Ciao Antonio, Antonio. Grazie. Buonasera. Giuseppe, te lo ti lascio parole inutili allo Smoking. Smoking, ti lascio il Gennaro per una prima considerazione. Ma quello che vuoi. No, come una prima considerazione? La prima considerazione sulle Gennaro. Parole che abbiamo ascoltato, cioè cosa vuol dire? Poi lui può parlare di Fiorentina tranquillamente. Che vuol dire ci siamo messi lo Smoking? Ogni tanto le parole dei calciatori mi fanno impazzire, perché ovviamente ci sono le conferenze stampa, bisogna per forza dire delle cose. Ci siamo messi lo Smoking. Che vuol dire? Cioè che siamo stati troppo snob, abbiamo sottovalutato gli avversari, ci siamo sentiti fighi, cosa vuol dire? Ma che no, io non credo che ci sia mai qualcuno che si metta lo Smoking. Roma se l'è messo con il Bayern Monaco. Ma semplicemente la Roma cercava, veniva in un momento di grazia, da un momento, pensava di potersela giocare alla pari, non è che si è messa lo Smoking, ha semplicemente sbagliato magari qualche cosa dal punto di vista tattico. Ma le parole adesso, si discute di questa cosa di Pizzarro, ci siamo messi lo Smoking, che non vuol dire nulla, è un'autoaccusa. Che cosa vuol dire? Non capisco. Antonio. Io non me lo sono mai messo lo Smoking. E certo, ma non è che uno entra in campo, sì, entra in campo, puoi sottovalutare l'avversario. So magari c'è stata una sottovalutazione, oppure anche la Fiorentina in quest'anno, diciamo un po' anche fine anno scorso, non ha dimostrato quella continuità che serve in queste competizioni e campionato insieme. Quindi in Europa sicuramente va decisamente meglio, in campionato ovviamente anche rapportata agli infortuni gravi che ha avuto, l'ultimo quello di Bernardeschi, che insomma va a penalizzare un settore, quello dell'attacco, che adesso rientrerà come insomma qualche problema l'hanno avuto, ecco, questo è in dubbio, però credo che sia una considerazione un po' fine a se stessa. Lo stesso Pizzarro, che ultimamente va sempre incontro a degli errori anche così di valutazione proprio sul campo, tattica, vedi anche il terzo gol che ha subito domenica contro la Sampdoria. Io adoro questo giocatore per quello che ha fatto e quello che farà ancora, però in alcune situazioni, soprattutto appunto in queste tattiche, come è successo domenica, come anche in altre volte dove io poi anche l'ho commentato, eccede in queste situazioni un po' così leziose. Forse insomma dovrebbe guardare più a queste cose che magari valutare l'aspetto proprio del suo smoking. Ecco, però ti posso dire una cosa, Antonio, adesso poi chiudiamo sulla Fiorentina, credo, no? Sì, anche perché voglio sapere la vostra opinione sulla Roma. Sì, no, io credo che la squadra alla vigilia fosse anche stata un po' sopravvalutata. Cioè, rispetto ai pronostici della vigilia, che dicevano di una Fiorentina, davano tutti la Fiorentina come la possibile grande sorpresa del campionato, ci sia stata una sopravvalutazione. Diciamo la verità, al di là degli infortuni, come hai detto, e di un potenziale d'attacco sicuramente sulla carta, sempre sulla carta, notevole, però insomma, ma la Fiorentina non fa mercato più da due anni, perché dopo l'anno scorso Gomez è arrivato in situazione, anche perché c'era un tesoretto ancora da sfruttare e quindi poter far mercato, ma un po' un discorso generale, insomma anche la stessa Roma in questi anni ha fatto mercato vendendo giocatori importanti di qualità e anche molto giovani, l'ultimo poi è stato Benassia per andare magari a pareggiare un'entrata importante, ma queste sono anche situazioni che il direttore sportivo in questo ha fatto veramente due anni alla grande su questo profilo. Per quanto riguarda la Fiorentina, poteva fare mercato se avesse venduto Cuadrado, certo. Ma Cuadrado in un momento anche vista anche l'assenza di Gomez e di Rossi molto prolungata, ora vabbè quella di Bernardeschi, ovviamente poteva andare a innescare delle problematiche di spogliatoio, di ambiente, anche proprio di organico di squadra. Sì, era anche una richiesta molto elevata quella della Fiorentina. Non mi sorprende più di tanto che Cuadrado alla fine sia rimasto lì. Prima della Roma l'Inter, restiamo in Europa League. Siete pro o contro Mazzarri, Cruciani? Io sono assolutamente pro Mazzarri. Pro Mazzarri anche tu? No, sono pro Mazzarri, sono contro un cambiamento che sarebbe una follia, a meno che non ci sia dietro già un accordo con qualcuno, un progetto di lunga durata. Che cosa serve oggi cambiare un allenatore che fino a qualche tempo fa era considerato uno degli allenatori emergenti? Non lo so, se non lo vuole più nessuno, questo non lo so adesso. Non credo andare a San Siro. Va bene, non lo vuole più nessuno. L'opinione pubblica nerazzurra in maniera sbagliata. I tifosi sono volubili. Fino a due settimane fa, tre settimane fa, l'Inter era, un mese fa, era una squadra compatta, una squadra che aveva un progetto e tutto. Ma io sono contro il cambiamento della natura dell'Inter, a meno che poi i giocatori non li giochino contro. A quel punto è chiaro che il proprietario deve tirare le somme, e non è che puoi cacciare 20 giocatori, 11 giocatori, e devi andare via l'allenatore. Antonio Di Gennaro? Ma pro o contro, bisogna valutare quello che hanno i loro obiettivi. E poi, se io ho commentato l'Inter in Europa League, anche l'ultimo a Parma, il primo tempo è imbarazzante. Cioè, allora io dico questo: noi parliamo sempre da anni del settore giovanile, di valutare i nostri giovani, di valorizzarli. Cioè, l'Inter ha giocatori a centrocampo, parlo di Medel, di Invilà, di Kuzmanovic, che non so se questi giocatori sono da Inter, per non mettere anche altri. Io parlo di Inter, di squadra che deve stare a grandi livelli in Italia e in Europa. Allora, se si parte comprando questi giocatori, cioè, i nostri allora veramente non giocheranno mai. Cioè, allora l'Inter negli ultimi anni ha prodotto nel settore giovanile grandissimi risultati e giocatori importanti. Perché non valorizziamo il nostro prodotto? Anche in un momento ovviamente di austerity che anche le grandi squadre hanno. Cioè, se vogliamo far partire una squadra con un regista come Medel o Invilà o Kuzmanovic, l'Inter non vincerà mai. Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Cioè, allora diciamo, pro contro è relativo. Bisogna vedere, i successi si ottengono con l'organizzazione, con veramente dei progetti mirati, sì, su un discorso di squadra. Li avrà presi Mazzarri, se li ha presi Mazzarri sono contro Mazzarri. Eppure a me l'Inter sembra più progettuale, ad esempio, del Milan. Il Milan mi sembra più compatto intorno a Inzaghi. Il Milan quest'anno qual è stato il progetto di Inzaghi? Perché aveva questi, gioca con De Jong, Montari e Poli. No, ma infatti... sono tre mediani, ma in Europa non gioca più nessuno con i mediani, ragazzi. Cioè, in Europa anche le grandi, ma anche le squadre, diciamo, di medio livello, cioè, a centrocampo hanno giocatori che hanno della qualità, della tecnica, soprattutto quelli che devono impostare il gioco. Se ne facevo una considerazione proprio con Amedeo Carboni l'altra sera, lui che poi viaggia anche per, poi ha lavorato a Valencia. Questa è una valutazione che il nostro campionato, le nostre città devono fare. Noi dobbiamo puntare sulla qualità, invece chi fa le squadre dall'inizio punta sulla quantità. Sì, è anche vero che in una piazza come quella di Milano, come l'Inter, devi il regista dell'Inter, scusatemi, no, ma sono d'accordo, può fare il regista dell'Inter, con tutto il rispetto che ho per loro. Anche De Jong è un ottimo giocatore, ma se il migliore in campo a volte è Medel e a volte è De Jong, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra in quella squadra. Sì. Beh, l'Inter ha anche Kovacic, non ha solamente Kovacic, non è regista, è un centrocampista. No, centrocampista avanzato. Parlo di regista, quello che deve dettare i giochi, la personalità. Sì, la sì, qualità. Sì. No, ma su questo hai ragione. Ripeto, ma io non voglio dire che sono scarsi giocatori, non mi fraintendete. Ma io parlo di Inter e di Milan. Sì, sì, non hanno una. Non hanno una stella di creatività a centrocampo, diciamo. No, non hanno la qualità. Non hanno la qualità, che poi significa anche creatività e tutto. E poi abbiamo anche paura in questo. Poi magari, insomma, Mazzarri in questo caso magari deve trovare degli equilibri tattici. Ma noi in Italia abbiamo questa, diciamo, poi non parliamo dell'intensità e quant'altro. Però io parlo principalmente della qualità dei calciatori. Se devono programmare, progettare una squadra su Medel regista, allora chi ha preso Medel o l'allenatore? Ora, Medel è un difensore, ragazzi. Sì, sì, sì, ma è un difensore. Ma infatti, là è un mediano, infatti, che giocano in orizzontale. Ma cosa vogliamo? Chi deve impostare? Giochiamo allora in virtù dell'avversario, ok. Però sì, non partiamo del dire è una squadra che deve imporre il gioco, non lo farà mai. A me, Antonio, sembra anche che l'Inter abbia dei problemi di chimica a centrocampo, perché va bene Medel, poi ha Hernanez e Kovacic, i tre che giocano a centrocampo dovrebbero essere quelli. Guarin il suo ruolo qual è, scusatevi? In centrocampo a tre ha sempre fatto. Guarin gioca a volte come seconda punta nel 3-5-1-1. Sì. Ma non la prenderà mai. Un'ultima cosa. Io credo che bisogna essere ritornare qui. Mazzarri, insomma, è anche uno che di calcio ne mastica. Ognuno deve giocare nel suo ruolo, signore. Sì. Io ho sempre basato su questo. Altrimenti si va a fare problematiche tattiche, disquisizioni ovviamente tecniche, che secondo me, insomma, lasciano il tempo che trova. Un'ultima cosa, Giuseppe, la Roma ha salvato la faccia, poi lo chiedo di Gennaro e poi che poi salutiamo. Ma se perdere 2-0 significa salvare senza la faccia, senza spucciare pallone, però, sì, ma non credo che sia la questione, fosse anche psicologica. È chiaro che un'altra sconfitta pesante avrebbe compromesso la tenuta nervosa di tutto l'ambiente, per cui è evidente che c'era il rischio concreto, vista anche la situazione della Roma non brillantissima da un sacco di punti di vista, di che finisse con un'altra imbarcata. Dunque, da questo punto di vista si può dire di sì, però insomma la essere contenti perché uno perde 2-0 a Monaco di Baviera mi sembra francamente una cosa ridicola. Detto questo, la Roma ha la fortuna di avere un girone in cui il Manchester City continua a essere la squadra che è sempre stata in Europa, cioè una squadra disastrosa, per cui a due punti ultimo in classifica, con l'unica avversaria per il momento, a meno che il Manchester non batta in casa il Bayern Monaco, i russi, insomma, si mette bene per la Roma, non è che si mette male, cioè, beh, deve si fare mette bene, poi a febbraio Mosca, chissà, poi a febbraio chissà chi incontri agli ottavi di finale, magari incontri una squadra che arriva prima in un girone abbordabile, cioè sì, la Roma che perde in casa 7-1 col Bayern Monaco, se no non è l'obiettivo, se azzecca magari, se ha fortuna nel sorteggio, potrebbe pure ritrovarsi ai quarti di finale, e fare, ma adesso c'è da essere contenti per questa sconfitta, vabbè, ma no, ma è chiaro, voglio sentire, voglio l'opinione anche di Gennaro, alla fine fanno 9-1 in due partite, no, poi abbiamo anche il 2 gol del Napoli, i banere anche potevano essere di più, quindi la forza della Roma era stata sempre la difesa. Ora si parla tanto magari della vendita di Benassia, ma Benassia insieme a Castan, che non so quando tornerà a giocare, era una coppia veramente, oltre a voi alla qualità che avevano in mezzo e anche davanti, ma questi due giocatori facevano la differenza dietro, e l'abbiamo visto l'anno scorso in un campionato strepitoso dove ha visto la Juventus veramente in una situazione, diciamo, stratosferica. Insomma, in quattro partite ha preso tantissimi gol, quindi non c'è da essere contenti. L'unica cosa, come diceva appunto prima, sulla seconda analisi, è che il Manchester City è veramente una squadra che in Europa fa veramente molto male. Per il resto bisogna essere contenti di quello, ma non credo che bisogna essere contenti per aver perso solamente 2-0 seconda partita di Bayern, assolutamente no. Infatti, è quello che penso anch'io. Grazie Antonio. Alla grazie prossima. A voi. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Cosa dirà Telese? Prima che, di c'è Luca pure. Sì. Ma non c'è il traffico. Eccolo. No, non c'è il traffico. Ah, non c'è il traffico. Luca! Eccolo. Che fai? Ma un risultato perfetto, nel mamma senso mia, che era che triste, mia, perfetto. Parte che a parte che Luca Telese è bisex, come ho già detto a Tiki Taka, perché non si capisce per chi tifa, se per il Cagliari o per la Roma, ma comunque al di là ma di non questo non possiamo passare tutta la vita a spiegartelo, non, a chi non vuole capire. C'è origini io sarde. Diventato del Cagliari da bambino, ma sono cresciuto a Roma tifando la Roma perché il Cagliari è in Serie B, è perfettamente bisex. Il conflitto di interessi, a parte il fatto che il bisex non è una cosa grave, no, ma assolutamente, figuriamoci. Il conflitto di interessi si risolve una volta l'anno, due volte Cagliari contro la Roma, due volte l'anno. Però detto questa è stata una partita psicanalitica che la Roma ha giocato impacciata, quasi ancora ferita dal 7-1, è andata quasi bene che abbia preso due gol. Se non avesse avuto questa paura addosso e questo senso di lutto, avrebbe avuto persino vincerla, perché il Bayern è stato ridimensionato, non era più l'orco che ti massacra. Sì, è una squadra che ha vinto 2-0 con un gol, se non segnava alla fine del primo tempo forse no, ma Luca, dai, onestamente non ha strusciato pallone la Roma, dopodiché la ritroverà in finale, perché ma chi l'ha detto? Questo girone è possibile qualificarsi. Guarda, io ti dico no, solo questo che... è vero, questo è vero, che sia possibile qualificarsi non c'è dubbio. Io ti dico solo che adesso tutti sentono l'odore del sangue. C'è Djordjevic, attaccante della Lazio, che ha appena dichiarato di avere un sogno, indovina quale? Vincere il derby. Segnare nel derby. Mamma mia, che tristezza, mi fanno queste cose. Ma sì, ma è bene, un momento vitale, il sangue è vita, e poi si vedrà. Io sono convinto che per i valori visti, prima del trauma, che ripeto, inizia con la partita falsata, voi siete testimoni, del Juventus Stadium, inizia il trauma emotivo. Una squadra che si sentiva invincibile, le dichiarazioni di Totti anche qui sono psicanalitiche, pensa di essere figlia di un dio minore, inizia un trauma che la porta a sbagliare, a perdere, questo è un segno di debolezza, però Luca, le partite adesso l'abbiamo riassorbito, questo è un segno di debolezza, cioè perdendo 2-0 a Monaco di Baviera l'hanno riassorbito. Sì, ah, sì, che sì. Tristezza, questo è un segno di debolezza, però cioè, se da quel trauma nasce un mese di questo tipo, è un segno di debolezza, che poi anche la battaglia mediatica l'ho capita fino a un certo punto, no? Perché la Roma, quale battaglia mediatica? No, quella nei confronti degli arbitri, della Juventus, eccetera. Ma no, eccetera. Ma lì c'è stata una partita falsata in maniera oscena, ormai dico gli atti della storia. Ma quale atti della storia? Ma di che parli? Dai, la verità parallela degli juventini che dicono pure di aver vinto due scudetti ma in dai, più. Ma Luca, ma smettila con questo vittimismo, anche tu. Strepitosa. Tu che sei romanista acquisito, anche tu vittimismo. I romanisti acquisiti sono peggio di quelli reali, cioè sono peggio di quelli rubata. Da questo punto di vista. Noi stiamo cercando qui di capire che lì c'è stato un trauma enorme, che questa squadra ha assorbito, come dici tu, molto più di quello che avrebbe dovuto, e si è infilato in questo scontrarsi contro una squadra pazzesca come il Bayern, che però ieri non era una squadra squadra pazzesca. Vabbè, ma non è che si può vincere sempre 7-0. È una squadra che ha vinto 2-0 con un golletto bello di Ribéry e un altro. Ti voglio far presente che è un gol in fuori gioco, se non faceva 1-0. Ti voglio far presente che il Bayern Monaco vince alcune partite in modo largo, altre partite si riposa un po', aspettano un po' di più, non hanno lo stesso ritmo e vince 2-0 ieri netto, limpido, senza concedere granché, cioè non mi pare una cosa. Sì, vince pure col 70% del controllo di palla, ma questo, pur avendo il 70% del controllo di palla, ha fatto un golletto dovuto all'estro geniale di Ribéry e un gol in fuorigioco, tutto qua normale. Guarda, Luca, non era la fine del mondo, Luca, ma la Roma doveva togliersi questa malaria dalla pelle, se l'è tolta, adesso se la gioca a Mosca e se la spettacolo. Allora ti saluto con una dichiarazione dell'allenatore dell'Hoffenheim che affronterà il 22 il Bayern di Monaco, che ha dichiarato: l'unica cosa che contro il Bayern non dobbiamo fare è cagarci addosso. Che è la stessa cosa che ha fatto la Roma, dici te. Madonna mia, la vostra malizia nordica. No, è semplicemente cronaca. Siete milanocentrici, ma sabaudocentrici, ma questo va bene. Grazie Luca. Ciao. Beh, parola del tifoso, no? Non puoi andare contro. I tifosi sono pazzeschi. Luca Terese è diventato veramente un tifoso integralista. Un integralista della Roma, una cosa, ma va benissimo, per carità. Però sono come quei tifosi accecati. La Roma io la vedo piuttosto male. Male. Guarda, a Napoli, no, l'hai vista bene anche a Napoli? Ma d'accordo, sì, la Roma ha sempre qualche occasione durante la partita, perché comunque ha giocatori che ti procurano occasioni. Io non la vedo assolutamente male. Penso che sia in corsa su tutti i fronti, che può tranquillamente qualificarsi in Champions League, e credo che è un obiettivo. Ragionavamo prima su una cosa, no? La Roma ha tutti gli elementi, è padrone del suo destino in Champions League, perché gioca a Mosca e gioca in casa con Manchester City, addirittura più della Juventus. Quasi più della Juventus, può qualificarsi, e se per caso poi ha un sorteggio favorevole negli ottavi di finale, becca una prima classificata del girone di un altro girone non particolarmente forte, e può addirittura se la può giocare, perché la Roma se la può giocare, come se la può giocare con Manchester City, come se la può giocare con CSKA, con i russi, e non è escluso che ce la possiamo ritrovare ai quarti di finale. Che significa soldi, che significa... Vediamo. Poi molti romanisti fanno un discorso assurdo, fanno un discorso, speriamo di essere... Io non sentito... Di essere eliminati, così ci concentriamo sul campionato. Esatto. Questa è una cosa che io non capirò mai, perché... Il ragionamento è questo. Sì, no, ma lo so. Cioè, il ragionamento che di molti romanisti che sento, di molti amici della Roma che ho, è questo: speriamo di essere eliminati dalla Champions League, così ci concentriamo sul campionato. Non è certo un ragionamento inedito. Discorso folle, anche perché poi si ricomincia a febbraio con tempi molto lunghi, tra l'altro a febbraio degli ottavi di finale, come sai. Ma insomma, secondo me la Roma con un po' di fortuna, si può anche trovare i quarti di finale. È anche vero che la pressione è sulla Juventus, perché per la Juventus sarebbe un fallimento uscire nella fase gironi, per la Roma tutto sommato sarebbe in questo caso un trauma assorbibile. Ma lì tutto dipende, come sai, da una partita che non è quella che uno può prevedere, perché se la Juve non vince Svezia è evidente che non merita neanche di passare il turno, merita il fallimento. La partita chiave è quella di Madrid, perché se l'Atletico fa quello che deve fare, va a Torino qualificato e la Juventus passa. Esatto. Grazie Giuseppe. Ciao. Torniamo con gli ascoltatori. Maurizio Modena, buongiorno. Buongiorno. Sono chiesto di intervenire nella trasmissione in riferimento a quanto diceva Di Gennaro. Sì. Che imputava all'Inter la non capacità di fare bel gioco, perché di fatto al suo interno avrebbe giocatori scarsi, sì. Esatto, solo mediani, no? Lui parlava solo di mediani, come anche del resto al Milan, la campagna acquisti non idonea. Secondo me è solo un problema di giocatori. Se avessimo dei gran mediani come quando giocava con noi Cambiasso e altri giocatori, l'Inter sarebbe stata fantastica, come lo era all'epoca. Sì, c'erano anche altri interpreti oltre certamente Medel non è Cambiasso. È tutta la squadra. Ma io sono d'accordo fino a un certo punto, però, Maurizio, sul fatto che l'Inter non abbia qualità, perché mi sembra anche più progettuale del Milan. Il Milan è vero, ha un centrocampo fatto senza Montolivo, esclusivamente da mediani, e questo è un grandissimo problema, secondo me, di Inzaghi. Per quanto riguarda invece l'Inter, lo vedo più come un problema di chimica tra Medel, Kovacic ed Hernanes, che sono i tre che devono giocare anche quasi per diritto divino. Si potrebbe cominciare anche a mettere in discussione questo terzetto, secondo me. È vero, Guarin non si sa bene che tipo di giocatore è dal punto di vista tattico, difficilmente inquadrabile, ha fatto la seconda punta con non eccellenti risultati l'anno scorso, però l'Inter non mi sembra una squadra così scarsa dal punto di vista qualitativo. No, il mio era un discorso generale, sì, ma io l'ho capito. Per rifarmi a quello che diceva Di Gennaro, oggi tutto il campionato italiano è sceso, perché quella che cantiamo come Juventus grande squadra, di quei giocatori lì, nel grande Milan che ho visto io e nell'ottima Inter del triplete, non ci sarebbe un giocatore che sarebbe titolare in quelle squadre lì. Di quelli che attualmente giocano nella Juve. Nell'Inter del triplete, insomma, Pirlo titolare. In valore assoluto, Pirlo titolare in tutte le squadre del mondo, in linea di massima anche Vidal, quando è il migliore Vidal. Credo che Tevez sia di quel livello, insomma qualche interprete in più la Juventus ce l'ha. Maurizio, grazie, vado a Napoli da Giuseppe, buongiorno. Buonasera gente, grazie per la convocazione. Solo due piccole battute. Una, io sono un tifoso del Napoli, ma se al posto della Roma avesse giocato il Napoli col Bayern, con l'atteggiamento di Benitez, ne avremmo prese 14, 7 per tempo. Presumendo che gli ultimi gol li abbiamo fatti dopo l'80esimo, e quindi sono meno, lei dice meno male che il Napoli meno non... male che siamo usciti con l'ultima in classifica. Classifica. E quindi ci concentreremo stasera con gli elvetici. Importante, per il Napoli, secondo me è importantissimo, per il Napoli Europa League. Sono d'accordo con lei, speriamo che capiscano l'importanza da tutti i punti di vista, economica, psicologica e con rapporto con la tifoseria. E poi sono perfettamente d'accordo con Antonio Di Gennaro, fine regista, io ricordo 51 anni, sì. Che affermo che ormai la situazione, ormai il calcio è preda dei mediani, dei galoppatori, e dovremmo lasciare più spazio ai nostri ragazzi che con questa aurea mediocritas non usciranno mai alla ribalta. Grazie. A lei Giuseppe. Ennio Roma, buongiorno. Buonasera gente. Dica. Senta, due cose, poi volevo un suo parere. Mm-hmm. Allora, la prima, sono d'accordo con Andrea che poco fa ha parlato di romagnoli. Io sono uno dei tanti romanisti che è rimasto molto dispiaciuto. Per me è un ragazzo che già era pronto per una grande squadra, quindi non serviva a portarlo a Genova. Non lo so, io quello che penso è che se si crede in un giovane e se si ritiene, per motivi giusti o sbagliati, di non poter garantire lo spazio che serve, è importante mandarlo in un posto dove gioca. Cioè, secondo me i ragazzi, ma non sto parlando di italiani o stranieri, perché questo è un discorso che mi appassiona, dico la verità, pochissimo. Mi interessa vedere buoni giocatori che nel nostro campionato, che vengano poi dall'Italia o dall'altra parte, interessa poco. Se però si ha il cartellino di giocatori giovani e interessanti, meglio mandarli a giocare da un'altra parte piuttosto che fargli fare panchina in casa. Questo è il mio pensiero, che poi sia giusto o sbagliata la valutazione su Romagnoli, Ennio, questo è il mio pensiero. Un'ultima cosa, dica. Vedendo le partite con il Bayern, io ho visto che comunque loro non ti fanno giocare, cioè arrivano in tre sul portatore, cosa che noi non riusciamo nel nostro campionato, quindi queste persone sono praticamente strapreparate. Allora chiedevo, ma non è il caso di capire la preparazione atletica che fanno queste squadre in precampionato? Grazie. Questo è un altro macro tema. Adesso è di moda dire che nel campionato italiano, che in Italia ci si allena poco. Magari è anche vero, però io leggo anche le dichiarazioni, che anche queste sono un tormentone, di diversi giocatori stranieri che dicono, arrivano qui e dicono, mai fatto così tanta fatica come in Italia con questo tipo di preparazione. Secondo me ci si allena semplicemente in modo molto diverso rispetto a quanto avviene all'estero, ma proprio per la ragione per cui il campionato italiano si gioca uno sport diverso rispetto a quello che si fa da altre parti. Gli arbitri fischiano troppo, è vero, le partite sono troppo spezzettate, è vero. Ci sono bruschi scatti e grandi pause. quando andiamo in Europa il gioco si ferma di meno, quindi la partita ha più fasi e di conseguenza lì emerge un modo di intendere il calcio differente. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. No? Lei è d'accordo con Telese che la Roma ieri sera è stata meravigliosa e ha risolto tutti i suoi problemi? No, il problema è questo, il problema è, volevo riagganciarmi a quella cosa giusta della mentalità, no? Il 7-1 col Bayern non è dovuto alla superiorità del Bayern, ma una squadra che non c'era, e secondo me tutto parte dal fatto anche, forse può partire dal fatto che ancora 24 ore prima di una gara che richiedeva una concentrazione enorme si polemizzava sulla gara di Torino. Cioè, è come se la Roma fosse arrivata, come diciamo a Roma, intronata da una polemica che invece, quando tu hai un esame importante nella vita, in tutti i campi, devi stare concentrato, è arrivata, come dire, pompata dal punto di vista nervoso. Dal punto di vista emotivo, però quella col Bayern doveva essere una festa, certo, la festa è arrivata dopo il diluvio della partita con la Juventus. Le faccio rispondere però da Paolo Condò. Buongiorno a tutti. Ciao, ha ragione Riccardo. È arrivata intronata? No, ha ragione Riccardo sul fatto che probabilmente le polemiche seguite Juventus-Roma hanno inciso in qualche modo. D'altra parte, quando si parla di grandi squadre che devono saper gestire grandi competizioni, due, tre all'anno, si parla esattamente di questo. La Roma in quell'occasione probabilmente non seppe cambiare il chip immediatamente e sentendosi defraudata da quello che era successo a Torino in casa della più forte squadra italiana, probabilmente pensò: non soltanto stiamo vincendo a mani basse quasi tutte le gare di questa stagione, ma per perdere in casa di una squadra fortissima devono accadere degli episodi arbitrali, e questo in un certo senso aumentò l'autostima, ma tolse forse anche l'ultimo paracadute frenante che c'era a una squadra che è andata a schiantarsi all'Olimpico contro il Bayern. E ieri sera? Perché ieri sera è stata, voglio dire, ciascuno di noi ambisce nella vita a essere sempre al massimo della forma, splendido, coraggioso, intelligente e tutto quanto, però chi vive sa che non sempre è possibile trovarsi in questo stato. Credo che ieri la Roma abbia avuto, come dire, la forza di farsi piccola, che non appartiene al suo DNA da quando c'è Garcia. Sì. Ha avuto la forza e il coraggio di farsi piccola e di accettare una sconfitta che non ha scavato ulteriori buchi nell'autostima. Cioè l'idea fondamentale era quella di andare lì e non farsi rovesciare addosso un'altra valanga di reti. Ti devo dire che prima della partita di ieri ricordavo come nelle ultime due Champions League il Bayern per due volte avesse fatto delle eccellenti vittorie in trasferta, contro l'Arsenal due anni fa e contro il Manchester City l'anno scorso, alle quali poi avevano corrisposto due sconfitte casalinghe. Tra l'altro quella con l'Arsenal molto pericolosa, perché era negli ottavi di finale, non era nel girone eliminatorio, e questo lasciava pensare a una certa difficoltà di concentrazione. Però è evidente che Guardiola da questo punto di vista ha lavorato molto bene e ha detto loro: escluso che possiate questa partita, questo girone non presentano ovviamente nessun rischio, non presentavano nessun rischio per il Bayern. Caro Europaolo Condò, la non tradizione del Manchester City in Champions League, mi scrivono dalla regia. Nella storia 8 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte, 39 gol fatti, 37 subiti. Va bene che è una squadra di parvenu, però c'è un limite anche alla non tradizione. È impressionante, è veramente impressionante, devo dire. Poi non è cambiato molto dai tempi di Mancini a quelli di Pellegrini, perché anche l'anno scorso riuscirono a qualificarsi anche grazie a un girone favorevole, perché c'era, oltre al Bayern c'era ancora il CSKA e poi Viktoria Plzen. Ma io assistetti a Manchester City Barcellona, gara di andata degli ottavi di finale, nei quali pronti via tutti in difesa ad aspettare l'urto del Barcellona. E che ti devo dire, è una squadra con molti giocatori fortissimi, come Agüero per esempio, che continua a essere molto forte, come David Silva, e una squadra con dei giocatori bravi e che passano per fenomeni come Yaya Touré, che è bravo Yaya Touré, è sicuramente bravo, però non è uno dei migliori tre centrocampisti al mondo come a volte mi tocca sentire, è una squadra che per arrivare, mi sono fatto questa idea, per arrivare ad alcuni giocatori è costretta poi a prenderne altri, penso a, ieri non ha giocato mi pare Mangala, però aveva fatto danni sufficienti nelle partite precedenti, che passano, che quando passano per il Portogallo è sempre un terno all'otto, possono essere dei fenomeni, possono essere delle gran pippe, sì. Ecco, possono essere dei Quaresma, sì, sì, però sì. Comunque vengono venduti come dei fenomeni, sì, sì, e sì, pagati come dei fenomeni quando passano per alcuni procuratori che ben conosciamo, sì. E il Manchester City in questo è caduto, dopodiché evidentemente anche Pellegrini, qui parla l'amico di Mancini, che rimase ferito dal suo allontanamento dal City dopo quello che aveva fatto, anche questo Pellegrini evidentemente non è sto fenomeno di cui si parla. Hai raccontato per i lettori della Gazzetta la partita della Juventus, due domande, la legge in chiave positiva per l'orgoglio, la grinta, il carattere eccetera eccetera, o in chiave non tanto incoraggiante per il modo in cui è venuta questa vittoria? Seconda cosa, oggi scrivi di questa idea che ci sarebbe di Tevez, Llorente e Morata tutti e tre insieme appassionatamente, a me sembra tanta roba. Beh, ma se tu vai a guardare le altre grandi squadre d'Europa, 3-4 giocatori molto offensivi ce li hanno tutte, è lì che devi far scattare il chip mentale alle nostre squadre, e devi mettere dei giocatori offensivi, ne devi mettere 3 o 4, perché altrimenti non vai da nessuna parte in Europa. Io ho salutato positivamente la vittoria della Juventus, ma anche perché hanno cambiato il modulo, e come insegnano gli allenatori veri, tu puoi giocare all'italiana tutti davanti alla linea di porta, oppure puoi giocare alla zemaniana tutti nell'area di rigore avversaria, ma devi credere in quello che fai, deve essere il tuo calcio, sì, quello che pratichi. E la mia sensazione su Allegri, che per questioni diplomatiche di ingresso soft dentro un mondo che non conosceva e che all'inizio forse gli era anche un po' ostile, lui abbia fatto la squadra di Conte. Ma lui è stato anche umile e intelligente, perché sì. Perché ma lui è stato furbo, forse è stato furbo. Lui ha una personalità, è un allenatore di personalità, Allegri. Certo che cambiare tutto e fare il tuo calcio, il tuo modulo nella partita che vale la vita, perché dicevo prima e ho detto in questi due giorni, la Roma vabbè se la gioca, ma per la Juventus il discrimine tra fallimento oppure no, questo girone, il passaggio del turno. Indubbiamente la Juventus deve passare, altrimenti il flop dell'anno scorso diventa una condanna seriale, e ovviamente ogni anno diventerà più difficile passare addirittura il primo turno. La Juventus deve vincere a Malmo per passare. L'idea di, allora, detto che a quanto ho capito questo modulo non avrà ripensamenti, si continuerà con il 4-3-1-2, che poi lo puoi declinare certe volte, sì, 4-4-2, sì, sì, poi a seconda anche di chi metti dietro alle punte. L'ipotesi di far giocare Tevez, che secondo me, a dispetto di quello che è riuscito a fare l'anno scorso in campionato, è molto più un bravo giocatore che un bravo goleador, sì, ecco, e mettere davanti Morata alla luccicanza, secondo me. Sì, è forse anche un qualcosa che non ti puoi permettere, è anche un po' di evanescenza, però, Paolo, in questo momento. C'ha 21 anni. Sì, no, ma il talento. Come eravamo noi a 21 anni? Eravamo assolutamente più evanescenti di Morata. Come no? Probabilmente quando scrivevamo, ovviamente, io almeno non ho provato a giocare a pallone. Grazie, Paolo. Ciao, Carlo. Ciao, ciao a tutti. Buon lavoro, Paolo Condò. Renato, provincia di Milano, poi Samuele da Treviso, e poi ciao a tutti. Renato, dica. Sì, buongiorno. Senta, bravi a fare questa trasmissione di cultura, di informazione, di dialogo, un po' di tutto, veramente molto piacevole. Grazie. Bravissimi. Ecco, niente, su Mazzarri io sono abituato a giudicare gli allenatori su 3-4 situazioni. Una è il gioco, una sono i risultati, una sono la valorizzazione dei giovani, dei giocatori, che sono sempre utili per una società. Ecco, riguardo Mazzarri non avviene niente di tutto questo. Aspetto i vostri commenti, sempre molto interessanti. Buona giornata. Certamente lei non è un sostenitore di Mazzarri, no, non può essere che non avvenga tutto questo, però ripeto, a Mazzarri bisogna dare anche il tempo necessario, e continuo a pensare che lavorare in una condizione come quella dell'Inter attuale sia estremamente difficile. Mazzarri non è un allenatore ideale per lanciare i giovani, cioè se io avessi una squadra con l'obiettivo di utilizzare i giovani, di lanciare i giovani eccetera eccetera, non prenderei Mazzarri come allenatore. Mazzarri è un allenatore bravo nel far rendere una squadra media, diciamo, almeno fino adesso ha fatto questo, nel far rendere una squadra media o buona come era il Napoli a un punto vicino al suo limite superiore. Con l'Inter non ci sta riuscendo. Renato? Ci sono. Renato? Mi sente? Sono. Dica. Sì, no, niente. Però è già più di un anno e mezzo che qui. L'anno scorso poteva fare un buon campionato, un migliore campionato. Ma secondo me l'anno scorso era una squadra molto pasticciata. Quest'anno l'Inter è qualcosa di diverso, è una squadra molto più progettuale del Milan. È certo che non, se adesso hai l'ambiente, l'opinione pubblica contraria eccetera eccetera, diventa anche difficile lavorare, figurarsi lanciare i giovani. Stefano Alghero, buongiorno. Stefano? Buongiorno. Sì, sono Stefano da casa del Monferrato. Ah, non da Alghero? No, magari. No. Magari anche per me, sicuro. Dica. Volevo fare una considerazione. Purtroppo la Roma, che perde due volte, la prima volta pesantemente, è il sintomo di una scarsissima preparazione atletica. Vedendo quella partita pareva di una partita di calcetto quando si gioca quarantenni contro ventenni. Quelli andavano i 200 e loro no. Ed è un sintomo che è causato dallo scarsa preparazione atletica, perché durante i mesi estivi le squadre vanno a fare i tornei. Ho capito, però, in Asia, sì, però ci va anche il Bayern di Monaco, ci va il Real Madrid, ci va il Manchester City, ci va il Manchester United, ci va tutte le grandi squadre, ormai fanno questo. Quindi non, secondo me è riduttivo dire la ragione è quella delle tournée. Peraltro le tournée sono quelle che ti portano il grano, o per sopravvivere come fanno le squadre italiane, o per comprare grandi giocatori come fanno le altre. Torniamo domani, grazie a Franco Piantarini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Ma che buongiorno, allegri. In conclusione, né il signor Burns né il signor Trickle presentano alcuna significativa lesione intercerebrale. Un momento, usi un linguaggio per noi profani. Hanno il cervello a posto o no? Il loro cervello è intatto, perlomeno quanto lo era anteriormente al trauma. È disposta ad autorizzarvi a tornare in pista? È inutile dire che è un passatempo molto pericoloso. Lasciamo da parte la filosofia, dottore. Io voglio un parere medico. Il mio parere è decisamente negativo al momento. Grazie, dottore. E ora vorremmo parlare ai ragazzi. Non credo sia necessaria la sua presenza. Se volete ridurvi a un ammasso di carne sanguinolenta su una qualsiasi strada di campagna, accomodatevi. Se vi date un'altra sola strosciata, se appena vi toccate vi espellerò dalla gara, e posso farlo. Poi, se supererete l'ispezione e rimetterete insieme le vostre macchine, può darsi che vi riammetta nella gara. E ora, per dimostrarci che non nutrite risentimenti, andremo tutti insieme fuori a cena.